dei giorni miei. Il dolce suono della tua voce produce in me la pace, tutto il resto tace, ne sei capace. Coreografie improvvisate, magiche serate consumate. Eccitante il tuo pensiero sfiora la mia testa e tutto il resto resta fuori, perché questa dolce sinfonia, la mia fantasia, allora via vestiti così sia in questa mia. Tu che sei poesia, ritratta nel mio cuore, il silenzio nel rumore, dove tutto è nero, tu sei il tocco di colore. O più semplicemente sei tu, l'ossigeno vitale, fai battere il mio cuore. Vive dentro me, dentro me, l'animo di questo cuore. Tienilo con te, con te, anche se poi non maledetta amica mia, da un'assurda gelosia, da parole di poesia. La mia fantasia vive dove io ti penso, ti vorrei. Mi tuffo nell'immenso della mia banalità, non trovo un senso, tu ci sei se mi abbracci. Parli, non mi baci, sono equivoci bugiardi nell'intreccio dei tuoi giorni. Voce che mi taglia, che mi abbaglia, tu mi inturti e prendo fuoco come paglia. Se ritorni assai mi basta, mezz'ora del tuo fascino, dai butta il cellulare, molla gli altri, senti il battito che porta fino al limite. Tradisco le mie lacrime, vivendo nella city insieme a te, complice amabile. Vive dentro me, dentro me, l'animo di questo cuore. Tienilo con te, con te, anche se poi non. Fermare il mio dolce battito. La notte sarà complice, questa notte sarai mia. Vive dentro me, dentro me, l'animo di questo cuore.